Carlo. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera, io sto facendo delle prove qua. Forte qua, cavolo. Non va bene. Cos'è attaccato qualcosa? Iantu. Però ho fatto dalla radio a 747. Già lo vedo già. Se stai toccando il DB, stai toccando. Colta, la radio com'è? Buona. Sta saturando, no? Negativo. No, ma se lo piloti non ti fate ciare. Entro piloti intorno ai 9, massimo 10 watt, non succede nulla. L'importante è che non vai oltre, se vai oltre allora comincia a saturare. Massimo dovrebbe andare a 8, adesso provo a sollevare appena, adesso l'ho sollevato un pochettino, dovrebbe essere 6. Va benissimo, magari la ditta è aggattata. Stamattina avevo collegato tutto quanto, avevo però lo smitterino, no? E mi ero dimenticato il collegamento e quindi mi è partito il fusibile, meno male. No, io non emetto il fusibile, tanto mi sa che ce l'ha dentro, ce l'ha, tanto si brucia. Mi devo mettere un fusibile da 15 ampere perché se no si brucia subito. Infatti quello che c'era era da 10 e si è bruciato, adesso quello che ho messo è da 15. Già va bene, già. Poi ho visto che dentro il 747 c'è un fusibile, però quello è buono perché l'ho controllato col tester, ero convinto fosse partito quello perché ero con Luca, poi Luca è dovuto uscire che ci aveva il dentista e quindi non mi ha potuto seguire più. E allora adesso cosa ho fatto? Ho collegato praticamente l'antenna al 747, poi dal 747 alla radio e dovrebbe essere così il collegamento. Mi pare di sì. E quanto ti sta dando nello strumento? No, lo strumento non ce l'ho attaccato. Qua mi sta dando però sul mio, diciamo, display della radio, come parlo, me ne va picchi di 9 qualcosa. Ah, vabbè, quella è la radio. Aspetta, in che scala l'hai messo? Il mio non è a scala, è a LED, capito? Quindi si accendono, vanno su e giù e basta, non è a lancette. Ah, ho capito. No, sto parlando dell'amplificatore. Quanto ti stava dando? Da stamattina l'ho provato e mi stava dando 20 watt. 100? 20 watt. Ti ho capito, Anto. No, sto parlando qua. Aia. Fai, se c'è da chiacchierare, chiacchiera con gli altri. Qua mi sa che sei anche più forte di casa, lo sai. Dove sei tu adesso? Qua sei proprio a fondo arriva. Forse a casa qualche punto in meno, ma non è male, dai. Già, non l'ho messo al massimo il pilotaggio, ho capito, perché ho paura che vedo che sta scaldando un pochettino, però già mi sembra tranquillo, dai. No, ma già va bene, già. È normale che scaldino tutte le alette, Antu. Capito. Se è normale che scaldi il 747 come chiacchieri. Sì, è normalissimo. Ma molto ti scalda o poco? Ok, diciamo che per adesso sta scaldando un pochettino, Ma non le fa niente, chi è che vuole entrare avanti? Io, buongiorno. Pompetta. Stavo regolando lo smitter, mi. Così a me non ci ho regolato lo smitter. Ora. Ho messo 9.30 a Carlo, a te se ti ascolto 9.20. Buonasera Antone, niente, mi provando qua una cosina nuova e vedo che scalda parecchio. Io stavo regolando lo smitter, siccome ieri mi ha fatto l'effetto, cazzo, saliva, scendeva da solo. Allora ho preso e dopo ho girato a destra a sinistra e adesso sembra stabile. Yeah, ho capito. Io l'altro giorno poi non mi sono fatto sentire perché tra un impegno e l'altro, Antone, mi sono anche dimenticato, capito? Poi c'avevo il turno di lavoro, eccetera, e quindi nuda. Dove sei a casa adesso? Io sono a casa. stavo registrando applicato le cose, la potenza dello Smith, lascia vedere, 10 watt, tutto di so. Sono tutta notte in piedi, la verità, ho mangiato e mi è rimasta la salsiccia che sta sullo stomaco camminando ieri notte. Dato che c'era, poi mi sono guardato la televisione e alle 2:30 ho visto quello che ha combinato con Putin. Yes. Si è fatto male, è sbagliato quello ieri. Ha detto che ha cominciato a bombardare, cazzo. Su Putin è mancante forte, capito? Perché non è periodo di fare guerre, cazzo, ne stiamo uscendo dalla pandemia, ci voleva pure la guerra adesso, vicino all'Europa, capito? Oiaia. Sì, con tutta quella roba che c'ha, cazzo, ha già messo fuori uso l'antiaerea che gli ha fallato coso Biden, quindi figurati, gli ha dato buca, gli ha dato. Ha fatto la guerra lampa, ha fatto, sono già vicino a Kiev, figurati tu, non ha trovato nessuna resistenza, entra, cioè, devo prendere quello là e beh, il presidente dell'Ucraina fuggissero e basta, doveva fare quello, doveva dire venite pure, prenditi lo Stato e siamo a posto, inutile che ti butti le bombe, capito? Doveva fare così, come hanno fatto con i cusi, con i talebani. Sono entrati e hanno fatto i padroni. Yeah, ne hai gana di prenderti un caffè, Antone? Certo che io voglio, intanto dopo devo andare a prendere i zigarillos, adesso, dopo. Per mio fratello, da Cicilia solo lui, c'era questi cavolo di... sono zigarri piccolini, sono da 10, pacchetto da 10. Adesso mi metto i pantaloni, il golfo, che stamane alle 8 mi sono coricato e mi sono svegliato a quest'ora. Ho aperto il baracchino e ho fatto la regolazione. Antonio, ci sei? Mi state chiamando? Yeah, dove sei, Anto? A casa sei? A casa di nuovo. Dove sei? Stazione 2. Ah, ho capito, no, perché con Antonella andiamo a berci qualcosina adesso al bar. Purtroppo sto lavorando, se no ero venuto tranquillamente. Yeah, ho capito. Aspetta che c'è Giovanni sotto. Giovanni, avanti. Già ti ascolto bene Giova, e io avevo qualche problemino con la radio e per quello non ci siamo sentiti, perché mi era partito il fusibile, quindi si era spento tutto, quindi pensavo fosse il fusibile del 747, l'ho aperto, invece non era quello, era il fusibile del cavo di alimentazione che si era bruciato. Bassino di radio, stamattina ti sentivo molto meglio, ma stamattina eri in barra mobile, così, sì, ho capito Giova, guarda se Antonio lo senti, c'è Antonello anche. Io già lo sento basso, lo sento, però sentiamo a tre, ma non lo ascolto lo stesso. E non mi prima la cosa, cazzo. Qua si vede, invece era fatto un altro baracchino, un cestino. Ecco dove la posizione. Tu vai, cambiati, che alle 4:15 sono sotto casa tua, Antone. E io aspetto 2 minuti, sono in camera a letto, metto i 2 pantaloni, il golfo, e sono metto le scarpe e sono a posto, aspetta, già vedo subito. Allora, Antonio e Giovanni, io sto uscendo e riprendo tra un'oretta quando rientro, che devo vedere Antonello un attimino e ci sentiamo più tardi, tanto già come rientro a casa lascio tutto acceso. Vanni? Qua arriva basso. Tu sei tu, ho sentito la portante, cioè ho visto la portante ma non ho sentito la radio. Già sto uscendo io. Riprova. Riprova. No, qua sta uscendo. Ah no, forse avevo toccato io qua la bagassa, mannaca, avevo abbassato tutto il volume. Capo, non so pure io, no. Perché io me ne accorgo. E a Giovanni ci sei ancora? Giovanni, sei tu, ho visto la portante e poi un ronzio, ma non è uscito di radio. Senti a Giovanni, Antonio. E a livello QRM, che c'è un disturbo, ma sicuramente ha problemi lui alla radio. E adesso era Santiago 7, fai un passaggio, Giovanni. Sì, stavo dicendo che ho cambiato un Antonio, l'hai sentito Giovanni adesso? Assolutamente no. Cioè ci vedo che si muove appena l'ago, ma non niente. Perché lui già ti arriva a 7 a te, immaginiamoci a me, che sono più in basso. Ho capito. Niente Giovanni, Antonio non ti sente perché sei più basso del segnale, disturbi, capito? E non ce la fa a sentirti, io già ti tiro fuori bene però Sempre in barra media, sto facendo delle prove con la barra media. Adesso è aumentato il segnale, Santiago 8. Girato a... in macchina. Pianto in macchina. Lì a Platamona, no? Dov'è? Ma dove sei? Zona Platamona sempre. A Platamona in quella zona, Anto. Lui a me mi sente. Che ti sente? Già ti sente lui. Vedi, il problema è suo, non è mio, perché se senti a me in quella zona, è lui che non sta andando bene. Evidentemente, secondo che antenna ha, come messa, non lo so. Ieri abbiamo fatto delle prove, aveva un Midland attaccato il 7001 con la banda laterale e siamo passati su quella banda lì e l'ha sentito, ci siamo sentiti meglio, capito, come segnale, come radio, capito? Addirittura Natalino lo sentiva. Comunque, cioè, se senti a me lì a Platamona, cioè lui che non arriva, il problema è il suo, che non, ma io lo vedo che non, anche da casa, che non ha abbastanza potenza. E dici, no, non c'è problema, stamattina con Gianni, ci stavo uscendo in quella zona, non avevo problemi a ascoltarlo. Ho capito. Vabbè, Anto, esco perché devo vedere Antonello una mezz'oretta e se ci sei ci sentiamo più tardi, quando rientro già riaccendo. Ciao Giovanni, che devo uscire e ci sentiamo più tardi. Non so la bicicletta oggi, se no ero stato domani. Ciao, sentiamo. Ciao Anto, a dopo. Ciao. Avanti Mario. Qua c'è Santiago 910, com'è lì a San Giovanni, no? Ottava, sì, quasi 8 e mezzo si è ottava. Non è male, come pensa che io sono molto lontano da te. 8 e mezzo spaccato, no? E va bene come cosa. 8 e mezzo spaccato e la modulazione è, diciamo che è chiara, amplificato, sì. No, già va bene, dai, pensa che è lontano da te. Non è vicino, no? Già, va abbastanza bene. Ok, cambia il controllo. Sei quasi 9, sei tu. 9, dai. Già va bene. Ok, perché ti chiedo scusa, sto aspettando una persona che sta a nome e è arrivata adesso, dai. Sentiamo più tardi, sei in casa, dai. Capo, dai, non c'è problema, Mati. Ciao, grazie. Nulla, cosa grazie, quando si può, la nostra c'è un amico, ciao, un grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Prova radio, mi sentite? Prova, mi senti? Hola, hola. Hola, hola, hola, buonasera, Giovanni, sì. Ciao Roberto, chi sei? Chi sei Roberto? Ciao, buonasera. Non ho capito chi sei, ripeti. Giovanni, Giovanni. Ciao Cristian, purtroppo io ho sempre QRM alto, 6-8 di segnale, però la radio è molto bassa, già ti ho ascoltato, non so se tu mi ascolti. Ma dove sei, a casa o in macchina? In macchina. Purtroppo già ti tiro fuori, però la radio ti do 2, massimo 3, non è molto chiara, perché c'ho molto QRM. Ok, dai, vado su altri puzzi adesso. Ci sentiamo, ciao Cristian, stai bene. Momenti va, non esce, a momenti esce, manco lei lo sa questo cazzo di impianto, cosa cazzo vuol fare? Vabbè. Cosa vuoi fare? Beh, non c'è nessun altro, no? Thank you. parlando? No, ancora acceso, non sentivo nulla, era ancora attenuato, uno attenuato a Carlo stamattina, stava provando l'amplificatore, non so, questo l'ha bruciato, dunque non accendeva più. Come non accendeva più? Mi pare che mi ha detto che ha cambiato il fusibile. Ah, no, era bisogno di cambiarlo, che non sapeva neanche che c'era, capito? Va bene, mi sono appena arrivato, dai. Aspetta un attimino che mi organizzo tutto e arrivo, eh. Ecco, però continuo a fare, oh, zero esatti orari, eccetera, eccetera, eh. Cazzo! E quindi, no, esiste. E che fanno i gucci? No. Vero di stazionaria, cazzo, allucinante. Comunque già pompa pure quella via Milano, là. Dai, va a farmi i piatti poi già, ok? Sì, fai, fai. Perché? E beh, Daniele, se aspetti anche tu. E vedi Daniele un segnale. Guarda un po'. Qualche punto in me, ma vabbè, già andavo a testa. E io come ti arrivo lì? 9.30 sei tu. Cappa, cappa, dai, quando facciamo la prova in via Milano già andavo. Ok, Dani, io vado a lavare i piatti ancora, ci sentiamo dopo. Cava, cava. Sentiati di pura varia. Cava, cava, cava, cava. Cicis, e sugato, ma così muove sta cosa? Attenzione, c'è gatta!